In questo mondo di magnaccia posso dir la parolaccia, fare versi con le braccia o anche una buffa faccia, raccontare ogni fregnaccia, ma se poi dico squadraccia o anche peggio volta faccia, presto arriva l'occhiataccia, poi si passa alla minaccia, di ogni cosa mi si taccia, mi riducono in focaccia. Mia linguaccia, c'è libertà di comicità, ma l'ironia in clandestinità, l'autenticità è criminalità, sì, alla simpatia, non alla sincerità. C'è libertà di comicità, ma l'ironia in clandestinità, l'autenticità è criminalità, sì, alla simpatia, non alla sincerità. Questo è un poco sovversivo, quello è non televisivo, e quell'altro un po' cattivo, l'altro ancora che era un divo, non so neanche se sia vivo, ce n'è uno ancora attivo, però deve essere schivo, che se fa troppo il giulivo, ce lo impiccono un ulivo. Anzi no, nello show più corrosivo, il vecchio attore inespressivo dice che sei radioattivo, bianco e siero positivo, e lo spettator passivo, dopo il programma intensivo, ha un istinto repressivo, vuol vederti a consuntivo. Voglio un antidepressivo. C'è libertà di comicità, ma l'ironia in clandestinità, l'autenticità è criminalità, sì, alla simpatia, non la sincerità. C'è libertà di comicità, ma l'ironia in clandestinità, l'autenticità è criminalità, sì, alla simpatia, non la sincerità. Stanley, oh, prendi questa torta! Prendi questa torta, io! Splash, splash, splash, splash, splash, splash. Adesso andiamo a casa, Onlio? Ma no, Stanley stupido, andiamo a denunciare Chaplin per comunismo, che ci facciamo due soldini in più. Hai ragione, Onlio, non ci avevo pensato. Visto, Stanley, se non ci pensassi io a certe cosine. Splash.